Ci siamo, si parte anche per questa sera, esattamente pochi minuti, 6 dopo le ore 20, inizia la nuova settimana, siamo nella giornata di lunedì 23 di giugno, siete su Radio Lombardia, la voce di Marco Gravelli, ma non solo, tra poco vi presenterò l'altra persona che qualcuno in webcam ha già cuccato. Perché? Perché molti ci ascoltano anche in streaming grazie al sito www.radiolombardia.it. Cliccate su ascolto oppure su webcam e ci potete vedere. Altri contatti? L'SMS 339-266-3825, nonché la mail diretta @radiolombardia.it. Come promesso, vi avevo anticipato sia giovedì che venerdì questa sera, per parlare del suo disco, per parlare di una manifestazione blues, abbiamo il re del blues in Italia, Mr. Fabione Fabio Treves. Uella, anche se re del blues c'è qualcun altro che si è autodefinito re del blues. Comunque io ringrazio l'amico, ma cosa dico amico? L'icona, ma cosa dico icona? Di più. Un mito, una storia, una leggenda, Marco. Grazie per avermi invitato qui, è un piacere per me. Sono emozionato perché è la prima volta che c'è lì, che oltre al microfono e la cuffia ti guardano. Tante cose che sapete. Un bacione a tutte le amiche e gli amici che stanno ascoltando Radio Lombardia. Per me è un ritorno, è un bel ritorno. Immagino che già interviste. Una delle primissime interviste in vita mia era il primo dopoguerra, mi ricordo. Il primo dopoguerra. No, che album avevi fatto all'epoca? Era il primo album. Primo disco. Era proprio... Ma ce l'hai ancora a casa tu, il primo disco. Sì. Mi ricordo che Radio Lombardia mi aveva preso proprio come simbolo del blues che nasceva nelle cantine e si allargava a macchia d'olio. È andata bene, è andata bene, sono contento e sono dopo contento 28, di tornare. 30 anni sei ancora qua. 35 anni fa, almeno 35 ormai. Allora, questa sera, oltre per parlare della manifestazione Blues in Idro, che ti vede ormai da anni protagonista, non solo come band, ma anche come consulente, ecco, siamo arrivati addirittura artistico. Diciamolo, ne parleremo tra breve, però vorrei iniziare, come sempre, con un po' di musica. No? La musica mi dai tu questa ispirazione e questa possibilità, perché io avevo scelto una tua vecchia canzone e invece, guarda caso, proprio questa sera mi hai portato il disco nuovo. Della Treves Blues Band. È un disco doppio, tra l'altro. Doppio, è in un effetti, disco doppio dal vivo. Ti chiederò qualcosa, una domanda te la devo già porre. Però cosa abbiamo scelto? Anzi, cosa hai scelto? No, One of a Kind. Cosa hai scelto tu? Sì, tu è un bel rocchettone, è un bel rocchettino. Insomma, è una bella musica. Io vorrei avere anche un riscontro dagli amici di Radio Lombardia. E beh, sapete, l'SMS l'abbiamo SMS detto. E la mail l'abbiamo detta, e allora ascoltiamolo. Vai. Thank you. solo sul disco, ma dal vivo, direttamente nei nostri studi, direttamente qua a Radio Lombardia, Fabione, il Puma di Lambrate, Fabio Treves. Che studios! Che studios! Che belli studios! A 35 anni fa non erano così. No, non erano così. Non erano neanche in questa sede. Che bella soddisfazione essere qui con te, circondato da tanti amici che già hanno inondato il computer, lettere, non so come si dica, la rete. Dunque, allora, gli sms, alcuni amici te li ho fatti vedere. Per quanto riguarda le mail pure, e poi salutiamo gli amici direttamente dall'urlo box di rockfamily.it che si stanno venerando, salutando, urlando, eccetera. Allora, il pezzo che abbiamo ascoltato fa parte del nuovo album della Treves Blues Band Live 2008, che è uscito da quanto? È uscito da pochissimo. Weekend scorso. Sì. Perfetto. Sì. Ed era il brano dal titolo One of a Kind. One of a Kind. È stato registrato a Pavia in un locale storico che è diventato negli anni punto di riferimento per la buona musica. Si chiama Spazio Musica. E lì si sono esibiti negli anni tantissimi bravissimi musicisti. L'abbiamo registrato lì anche per ricordare l'amico che ha fondato e animato per anni lo Spazio Musica e che ci ha lasciato troppo presto, Bruno Morani. Si respira buona musica, abbiamo fatto due sedute di registrazioni, buona la prima. Ah, col pubblico comunque. Con il pubblico del blues, anzi con il pubblico della Treves Blues Band invitato. E devo ricordare subito i musicisti: Alessandro Gariazzo alla chitarra, conosciuto come Kid Gariazzo, chitarra, mandolino e strumenti a corde. L'inossidabile, il dinosauro, il brontosauro del blues, mio cugino, non perché sia mio cugino veramente, ma perché di fede nera azzurra, Tino Kappelman Cappelletti, la Poiana di Marone, e poi Massimo Serra da Biella alla batteria e le percussioni. Una band ormai consolidata, collaudata nel tempo, collaudata. E devo dire che la gente ha risposto bene. Ha risposto perché, così come noi vogliamo bene al nostro pubblico, il nostro pubblico vuole ci bene. Rimanda questo affetto, questo e questa passione, e così si va avanti. È la prima volta che pubblichi un doppio? Sì, è la prima volta in assoluto, e ci ho messo quasi 35 anni di carriera, però. Però sei arrivato. Sì. E scusa la domanda un po' stupidotta sulle canzoni. CD1 14 brani, CD2 solo 4, perché sì. Sono versioni no, jam. No, perché nella seconda CD c'è una traccia che è molto pesante, perché abbiamo voluto riunire tutte le fotografie che ci mandano dai concerti. Allora la gente deve sapere che noi non è che le cestiniamo, le guardiamo una per una, le migliori compaiono in questa traccia TBB Piccio Show, ed è un modo anche questo per ringraziare il nostro pubblico, che magari non sarà numeroso come quelli di San Siro o di altri posti, però è comunque un bel pubblico, e ci sono le fotografie, tutte le foto, quindi tramite il PC le puoi vedere tutte quante. Esatto. Perfetto. Beh, i brani qui si spaziano dai tuoi ad alcuni classici della musica blues, quindi... È comunque il concerto fedele, si respira l'aria e si respira la tensione, l'energia di un qualsiasi concerto della Treves Blues Band. A proposito di concerti, tu che sei sempre in giro in questo periodo, anche se la pioggia è così, però weekend prossimamente, dove suonerà la Treves Blues Band? Dove ti si potrà vedere dal vivo? Io punto tutto sul concerto del 23 luglio alle Tribune del Rito Scalo, anche perché sarà l'unico concerto alle Tribune assieme a quell'altro di uno molto più famoso di me. Io sono semplicemente il Puma di Lambrate, lui è il Leone di Manchester. Sto parlando di John Mayall, che si esibirà nell'ambito del manifestazione Blues in Hydro 2008. Esatto. Lui suonerà il 9 luglio e noi saremo il 23 luglio, quindi l'appuntamento per tutti gli amici e le amiche di Radio Lombardia è per il 23 luglio, Tribune del Rito Scalo. E lì presenteremo ovviamente anche il nostro disco. Esatto, ma invece in Toscana prima non c'è qualcosa in questo in periodo. Toscana c'è. Parlavano di Siena. C'è un bravo, ma tu devi venire a lavorare nella Treves Blues Band, tu sei un ottimo PR. Sì, il sabato 28 giugno, per tutti gli amici toscani che ci stanno ascoltando in streaming, siamo a Torrita di Siena per il ventennale di questo bel festival. È un posto molto caratteristico, Torrita di Siena, sabato 28 giugno. Si mangia bene, eccetera, molto bene. Allora, Blues in Hydro 2008, l'altra sera si è iniziato con Nine Below Zero, gruppo storico inglese di rock belli, blues, sanguigni, energici. Questa settimana invece cosa potremmo dopo domani trovare? Ci sarà la London Community Gospel Choir, che qui andiamo di gospel, quindi alla grande. Tra l'altro loro hanno collaborato, contribuito anche in un pezzo dei Blur. Blur. Ok, sì, abbiamo capito. E poi dopo ci sarà KB Brown, musicista nero acustico in trio. Poi sarà la volta di Roberto Ciotti, ma se voi volete saperne di più andate sul sito oppure info@idropark.milano.it e poi potete anche fare un salto sul sito della Treves Blues Band, sul sito di Blues and Blues o bluessummit.com. insomma, i concerti sono gratuiti. Bravo. Allora, in un momento in cui tutti si lamentano che costano tanti concerti, c'è un'istituzione come la provincia che decide di dare 8 concerti gratuiti, compreso quello di John Mayer. Eccolo lì. E allora dico, facciamoci vedere, facciamoci riconoscere, affolliamo la tribuna dell'Idroscalo, perché non dimentichiamo che per tanti che organizzano delle sporcacciate, una volta tanto che c'è un festival del blues, andateci. Il festival del blues della città di Milano. Andateci, fatevi vedere. Soprattutto il 9 luglio, abbiamo detto, con John Mayall, che abbiamo anche pronto col prossimo pezzo, no? Going Down, questo me lo pronunci, me lo becchi tu da che album? I'm going down. Album nuovo, dell'ultima parte. In the Palace of the King, è un album, l'ultimo di John Mayer. Quindi dedicato, l'ultima parte della sua storia. Esatto, dedicato al grande Freddie King, che eccolo qua. I'm going down. Radio Lombardia, Marco Sgravauz. tanto di cappello ad un grandissimo maestro del blues, quale John Mayall, al 9 di luglio alle tribune dell'Idroscalo di Milano per Blues in Idro 2008 e poi il 23 di luglio la Travis Blues Band, sempre alle tribune dell'Idroscalo, gratis. Il tutto a gratuitamente, gratis, come si dice. A babbo. Questo qui era un brano di un bravissimo compositore, Don Nix, che l'era non Prevost, no, Don Nix. Ma che bello, bello vedere quanta gente che scrive, quanta gente. Questi erano scrive. Tutti per te le varie mail e gli sms, eh? Ma sai, io penso che il ritorno in una radio che veramente ha rappresentato molto per la città di Milano e non solo, Radio Lombardia. Io ho iniziato in una radio che non era concorrente, però sai, Canale 96 e Radio Popolare erano tre radio, come si diceva, impegnate anche nel sociale. E quando si trasmetteva della musica blues o rock, c'era sempre qualcuno che si gasava, perché certo, dopo tanti discorsi giusti, arrivava il blues, il rock a tirare sul morale, cosa salva dal magone? Il buon vecchio rockettone. Blusettone. Rockettone, esatto. Allora, dal disco nuovo o dal vivo mi suoni questo brano? Sì, è un 30 time blues. Ci proviamo, Strago il ferro, dedicato a proprio al blues, alla musica che io amo. Vediamo se funziona il tutto, eh? Vediamo un po'. Fabione, questi suonano di brutto, eh? E del resto loro le radici blues ce le hanno nel sangue, nell'anima. Una volta Robert Plant mi ha detto: caro Fabione, se non ci fosse stato Willie Dixon e Sonny Boy Williamson, noi non avremmo fatto neanche il primo album. È vero, della, è proprio vero. Zeppelin. Anche perché il primo disco erano quasi e tutti poi i pezzi. Jimmy Page è uno che non ha mai negato la sua insana passione per il blues delle origini. Siete su Linea Rock come programma, naturalmente sulle frequenze di Radio Lombardia, la voce di Marco Gravelli e quella del buon Fabione Treves, dalla Treves Blues Band, con ospite questa sera, perché abbiamo parlato della manifestazione Blues in Idro, abbiamo anche parlato del nuovo disco della Treves Blues Band Live 2008. Potete inviare i vostri sms al 339-266-3825. E a questo proposito, caro Fabio, qualcuno ti chiede allora, dove andare a imparare a suonare l'armonica? Non lo so, perché io sono autodidatta e non mi sembra che non ci siano scuole di armonica, però se tu vai sul sito www.doctorharp.it, lì ci sono indirizzi di tutti i tipi. Io ti posso solo dire: dacci dentro, suona, e se sei di Milano ti fai vivo qualche concerto, magari scambiamo due parole. E se invece vuoi saperne di più, mi mandi una email a trevesbluesband@hotmail.com e io ti rispondo quasi in tempo reale. Quasi, perché quasi, Fabione, con la tecnologia casa, è no, un po'... No, io sto alla tecnologia come qualcun altro sta al blues, bravo. Infatti, va bene. Allora, so che la prossima band, che è di Milano, la conosci anche tu, conosci Cristina, eh? Chi mitica, non conosce Cristina, la mia mitica dei Lacuna Coil, perché in loro sono già stanno preparando le canzoni del prossimo album, però visto che pubblicheranno un DVD, chiedono aiuto proprio ai fans della band, ai fans italiani. Se avete del materiale video con loro, oppure voi coi vostri amici mentre siete al karaoke a cercare di eseguire un pezzo dei Lacuna Coil, eccetera, potete inviarlo a loro, che poi verrà visionato, assemblato in questo DVD. Vi do l'indirizzo dove andare a vedere tutto e a leggere soprattutto tutte le specifiche, che è www.youtube.com/lacunacoil. praticamente è il YouTube della Lacuna Coil. Su questo canale potete vedere tutto quanto e capire di che cosa si tratta, di che cosa stanno cercando. Intanto noi li abbiamo già con noi in sottofondo con Heaven's Lie in Linea Rock, Lacuna Coil, e poi parleremo di Jimi Hendrix e delle sue chitarre. No. Allora, questi erano i Lacuna Coil, abbiamo parlato di loro con la ricerca di materiale video da poter essere inserito sul prossimo DVD. Invece, caro buon Fabione, parliamo delle chitarre di un certo Jimi Hendrix. Sì, le chitarre di Jimi Hendrix non sono male. E però, che cosa è successo? Allora, sai che lui cercava spesso alla fine dei concerti di incendiarle. Successo tante volte, no? E le ha bruciacchiate un bel po'. E ora, dopo 41 anni, questa chitarra, che era rimasta praticamente dispersa in un deposito, ed è la chitarra che lui ha incendiato nel concerto del 31 marzo del 1967. Non so se tu hai partecipato, penso di no, a quel concerto, anche se dopo magari ci dirai la tua. Dov'era? Dov'era la chitarra? No, dov'era il concerto? Alla Storia di Londra. Non c'eri in quella occasione? No, io c'ero in un altro. Un mese dopo. Ah, un mese dopo. Beh, quella chitarra adesso è rispuntata, verrà messa all'asta quest'estate in Inghilterra. Preparati, 315.000 euro. Si pensa di portarli a casa, non bastano, ce la facciamo, ma neanche se andiamo a fare la colletta non ce la facciamo, veramente. 315.000 euro per portarsela a casa. Se invece qualcuno volesse vedere delle fotografie di Jimi Hendrix con la mitica Stratocaster, anche senza spendere quella cifra, basta che vada sul sito della Travis Blues Band, perché tu sai che io ho visto Hendrix una decina di volte, tra cui l'ultima assieme a Eugenio Finardi a Camerini all'Isola di Wight. Però quando è venuto in Italia nel 68, per l'esattezza il 23 maggio del 68, ho avuto la possibilità di conoscerlo, di abbracciarlo, di salutarlo e di fargli delle fotografie. Ah, che tu gelosamente conservi. Ma neanche tanto gelosamente. Ma una me l'hai regalata. Io penso che se uno è amante del buon rock e blues, basta che lo dica, e secondo me la fotografia in questo caso non ha diritto d'autore. Mi fa molto piacere stamparla o mandarla via mail agli appassionati. Beh, allora ce le ascoltiamo. Eccolo qua a spuntare con la sua magica Fender e con Fox Lady Jimi Hendrix. Certo che qualcuno dice 315.000 euro per le ceneri. È una chitarra un po' bruciacchiata, ma è sempre un valore immenso, eh. per il personaggio che è, naturalmente. Sì. Grandissimo, grandissimo Jimi Hendrix. A questo punto, dopo aver ascoltato qualcosa di classico, andiamo invece ad ascoltare un album che è uscito da pochissimo negli States. È al numero 4, è un gruppo di nerds, venivano così definiti gli Weezer. E l'album nuovo, appunto, è appena entrato in classifica questa settimana. E il singolo ha un titolo che è un programma: Pork and Beans. Maiale e fagioli. E via. They say I need some Rogaine to put in my hair. Work it out at the gym to fit my underwear. Oakley makes the shades a transformer tool. You'd hate for the kids to think that you lost your cool. I'ma do the things that I want. 14 sabato hanno suonato l'unica data con il loro tour della reunion allo stadio di Modena, e c'era molta gente. Questo è stato il pezzo d'apertura, Rage Against the Machine con Bomb Track. Magari anche qualcuno degli ascoltatori di Linea Rock o dei fruitori del sito rockfamily.it sono andati a vederli dal vivo, e secondo me è sempre una grandissima emozione. Ci stiamo avvicinando alle ore 21. Il Fabione doveva essere qua solo per qualche attimo, per qualche istante, invece si ferma fino alla fine. Mi fa piacere. Un altro concerto che la scorsa settimana si è svolto al Live Club di Trezzo sull'Adda ed era stra esaurito, 2000 persone, per vedere questo grande chitarrista che si chiama Joe Satriani. intitola così, Change for the Better, questo brano, visto che mi è stato anche richiesto dagli ascoltatori qualcosa dal nuovo album dei Journey, che si intitola Revelation. Settimana scorsa ho proposto una canzone differente. Pensate che dopo tanti anni di mancanza con un lavoro nuovo, con questo sono già al numero 5 come nuova entrata in America, e con un cantante che hanno scovato nelle Filippine, questo tale Arnel Pineda, che mi sembra se la cavi bene. No, Fabione, anche Pineda, quello. Pineda, un nome e una garanzia, benissimo. Journey dall'album Revelation, siamo negli ultimi 20 minuti a nostra disposizione. E siccome le promesse vanno mantenute, vi ho detto che avremmo anche regalato qualcosa di settimana in settimana, quali CD prossimamente, biglietti per concerti prossimamente. Da questa sera invece effettueremo un collegamento telefonico velocissimo che permetterà a qualcuno di voi, al primo insomma, e segnatevi l'SMS 339-266-3825, di vincere un videogame per PC. Sentite un po' qual è e poi componete e inviate l'SMS con nome, cognome e la città da cui inviate il tutto. Come promesso, da questa sera ed ogni lunedì, a meno che non ci siano poi controindicazioni, ci colleghiamo con l'Halifax, notissima casa che distribuisce videogame per tutti i tipi di console, e da questa sera sentirete la voce di Fabio Perrotta, che è già in collegamento con noi. Ciao Fabio, ciao, benvenuto. Buona serata a te. Questo ci permetterà praticamente di settimana in settimana, sino alla prossima, diciamo, periodo di vacanza, di omaggiare ai nostri ascoltatori 5 cose, una per sera di un videogame. Questa sera a settimana una copia al giorno. Una copia al giorno. Questa sera partiamo, e questa settimana di riflesso, con un'avventura per PC che si intitola... Sì, un'avventura grafica, il titolo è Dracula Origin, quindi possiamo già immaginare il tema e le ambientazioni. Siamo in Transilvania. Sì. Diciamo più nella parte finale, si arriva in Transilvania. Comunque è un classico punta e clicca sullo stile del di Broken Sword, con i vari scenari, sliding scenery, praticamente si va da una location all'altra e si indaga sui vari oggetti che sono presenti per arrivare chiaramente a una soluzione. Tutto il gioco è in lingua italiana, suppongo, giusto? Chiaramente. La traduzione in lingua italiana. È un'avventura molto gotica, oltre al... Molto gotica ed è molto fedele alla storia originale, cioè non è uno spin-off magari... Non lo so, calato in un ambiente un po' più moderno, è proprio originale, classico stile Dracula. Quindi abbiamo il conte Dracula e Van Helsing, o un cacciatore. Ci caleremo nei panni di Van Helsing per sconfiggere appunto il principe delle tenebre. Esatto, con tutti i vari oggetti soliti per cercare di sconfiggere il conte Dracula, suppongo. Chiaro, la leggenda non si cambia. Bene, allora io ti ringrazio Fabio, ci ritroveremo il prossimo lunedì per un altro collegamento con altri videogame, ricordiamo Dracula Origin per PC. Grazie a te Fabio. Saluto a tutti. E allora... Potete inviare a partire da questo istante il vostro SMS al 339-266-3825 per vincere questo videogame per PC, e quindi non è per una console quale la PlayStation o l'Xbox eccetera, ma per PC. Se vi interessa inviate l'SMS con nome, cognome e la città e poi vi ricontatteremo. Invece una storiella divertente sugli Iron Maiden è successa ieri sera. Ieri sera erano al Madison Square Garden di New York. Fabione non è mai suonato lì, eh? No, in compenso ho giocato a pallone con Steve Harris. Aspetta, perché scusami, ci arriviamo. A metà del pezzo Power Slave, che è già abbastanza lungo di per sé, magari questo ti capita, si sono spenti tutti gli amplificatori, sono rimaste accese completamente le luci, quindi il pubblico vede la band che non suona, ma non esce più nulla, il suono naturalmente un po' di panico, ma dopo un minuto arriva il pallone sul palco. Sai che gli Iron Maiden e i loro tecnici sono appassionati di calcio, di football, e si sono messi a giocare a pallone tra di loro in mezzo a tutta la scenografia con piramidi, eccetera, sarcofagi e vari, e però dopo 10 minuti si è sentito di nuovo il suono proprio del basso di Steve Harris, ok, si può ricominciare. Pensa, l'hanno presa. Sono bravi. Pensa che allo stadio Brianteo io curavo proprio Steve Harris, che mi ha detto il dribblo 16 volte a suo tempo. No, sei un bel mastino, ricordi un po' un terzino, si chiamava Leibon della nazionale inglese. Questo solo lui conosceva, però non lo so. No, ma comunque loro giocano bene. E giocano bene. C'è da dire che noi abbiamo vinto la nazionale italiana DJ. DJ ha battuto, quindi, ha battuto allo stadio Brianteo 15 anni fa gli Iron Maiden. Che abbiamo già con noi, questa è Run to the Hills. Yeah. E non manca molto se avete già in mano il biglietto per il Gods of Metal. Nella prima giornata ci saranno proprio loro, quindi avrete modo come headliner di vedere o rivedere, visto che in Italia sono arrivati una miriade di volte gli Iron Maiden. E la prossima settimana, alla fine della prossima settimana, il prossimo weekend, ci sarà proprio il Gods of Metal che ritorna in quel di Bologna, abbandona l'idroscalo di Milano, anche perché all'idroscalo di Milano Te l'ho servita. Me l'hai servita. Vai. L'idroscalo si sostituisce con un buon blues alla Villetta e alle tribune dell'idroscalo. Una rassegna alla quarta edizione di Blues in Idro, è partita mercoledì scorso, andrà avanti fino al 6 agosto. Da segnalare tanti bei concerti con gruppi italiani e non, il gospel. Potete vedere tutto sul sito della provincia di Milano oppure Idro in festa, sono una persona anziana, devo venire di lì, Fabio. Nel frattempo tu puoi sempre dire che il 23 di luglio c'è la Travis Blues Band, questo sì, e il 9 di luglio c'è John Mayer, esatto, sempre alle tribune, e che allora, i concerti sono tutti gratuiti, esatto. Vai. Info idropark @provincia.milano.it. La prossima volta ti voglio più preparato, sì, mi raccomando. No, me devo portare semplicemente gli occhiali, una certa cose età. Che capitano. E poi, dato che ci sono, se mi consento da solo, rispondo a un amico ascoltatore che vuole sapere quando la Travis Blues Band sarà a Rapallo. Suoneremo sul lungomare di Rapallo il 17 luglio. Che bello, tempo sul permettendo. Ci vogliono i Moonboots tra un po'. Tra un po', va bene. Allora, ringraziamo perché non l'abbiamo fatto ed è un po' difficile riuscire a seguire tutti i vari sms e le mail che sono arrivate questa sera. Grazie naturalmente di cuore da parte di Marco Gravelli e del buon Fabio Treves, che poi con calma comunque avrà modo anche di rispondervi. Mancano 10 minuti alle ore 21:30 quando, ahimè, chiuderemo anche il nostro primo appuntamento di questa settimana. Ma sei un gigolò, sei stato un gigolò, sei ancora, sei tuttora. Allora questo è per te. Linea Rock concerti, alcune segnalazioni di gruppi e festival in arrivo in questi giorni, nel mese di giugno e luglio. 17 di giugno gli Alter Bridge, unica data al Fillmore di Corte Maggiore in provincia di Piacenza. 20 di giugno i Verdena Live Club di Trezzo d'Adda, il 21 giugno a Prato presso il parco di Galceti. Ancora i Kiss il 24 di giugno al Dutch Forum di Milano a Sago. Continuiamo con Neil Young, che sarà il 22 giugno al Nelson Mandela Forum di Firenze. 19 giugno gli Hardcore Superstar saranno al Music Drum di Milano. Il giorno seguente, il 20, saranno alla Fortezza Vecchia di Livorno. Si prosegue poi con l'Anakin Jamming Festival, 20 di giugno, il tutto al Parco San Giuliano di Mestre, provincia di Venezia, con Linkin Park, Sex Pistols, Chris Cornell, Iggy and the Stooges, 21 giugno Vasco Rossi, 22 giugno Baustel, Alanis Morissette e i Police. Altro festival che si tiene a Milano, se non sbaglio, l'Evolution, Evolution Festival, l'11 di luglio all'Idroscalo, suoneranno nella giornata dell'11 luglio gli Evergrey, Dark Tranquility, Sonata Artica e i Cavalera Conspiracy. Nella giornata seguente, cioè i 12, gli In Flames, gli Opeth, Gamma Ray, Death Angel e Pain of Salvation. Il Rockin' Field Festival, sempre all'Idroscalo, ma però il 26 di luglio con Eluvetie, Biomechanical, Threshold, Vision Divine, gli Epica, gli Avantasia e gli Halloween. E poi, visto che li abbiamo citati, chiudiamo parlando proprio del Gods of Metal. La giornata del venerdì 27 di giugno, Iron Maiden, Avenged Sevenfold, Rostatu, Apocalyptica, Airborne, Lauren Harris, Black Tide ed altri ancora. Sabato 28 invece Stormlord, Dillinger, Escape Plane, At the Gates, Testament, Meshuga, Carcass e Slayer. E chiudiamo con domenica 29 con Infernal Poetry, Enslaved, Obituary, Morbid Angel, Yngwie Malmsteen, Iced Earth e Judas Priest. Questo è il cast del Gods of Metal che, attenzione, si tiene all'Arena Parco Nord di Bologna. Con questo siamo arrivati al termine. Domani altro appuntamento, altri concerti nel nostro spazio di Linea Rock. Ancora un paio di brani e poi arriveremo, ahimè, anche per questa sera ai saluti ufficiali del primo appuntamento. Gruppo non nuovo, perché forse non è mai venuto a suonare in Italia, però ha già inciso diversi album, soprattutto negli States, vende, beati loro, milioni di copie. Si chiamano Freedom's Down, questa è la loro It's Not My Time. Now the 21 e 31 minuti primi, la voce di Marco Gravelli in linea rock su Radio Lombardia, la voce di Fabio Treves in linea rock su Radio Lombardia. E siamo arrivati alla fine, hai visto, è volato il tempo. E ringraziamo, caro Fabione, tutti gli amici che hanno inviato una mail a diretta@radiolombardia.it, i vari sms, e gli amici che ci hanno seguito ed ora sono in chat con altri nel sito rockfamily.it. È stato bello iniziare con te la settimana. Un pubblico di grandi intenditori, dalle mail che ti sono arrivate. Questo mi fa piacere, quindi in futuro avremo modo ancora di ritrovarti. Visto... Grazie dell'ospitalità, Marco, grazie a questa radio gloriosa, che il blues ci salvi dalla musica usa e getta, vi voglio bene. Un po' di concerti, l'abbiamo già detto, quello all'Idroscalo. Per gli amici della Toscana ricordiamo il 28 di giugno a Torrita di Siena. Perfetto. E poi invece Rapallo più vicino. Poi Rapallo 17 luglio e poi 23 luglio gran buffata di blues alle tribune dell'Idroscalo. Questo per la Treves Blues Band, per la voce di Marco Gravelli è veramente tutto, grazie a voi, vi lascio con l'ultimo motivo, ci ritroveremo domani sera puntuali dopo le ore 20 con un altro appuntamento di Linea Rock. Grazie, ciao ciao! I've been lost inside my head. Echoes fall off me. I took the prize last night for complicated mess, for saying things I didn't mean and don't believe. I can't believe